Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. We've lost one of the most influential. Abbiamo perso uno degli uomini più influenti, coraggiosi e profondamente buoni dell'umanità. Ora non appartiene più a noi, appartiene alla storia. Attraverso la sua fiera dignità e una volontà ferrea di sacrificare la propria libertà per quella degli altri, ha trasformato il Sudafrica e ci ha scosso tutti. Sala stampa della Casa Bianca, il primo presidente nero degli Stati Uniti d'America rende omaggio al primo presidente nero del Sudafrica. Non posso immaginare, dice, la mia vita senza il suo esempio. La mia prima azione politica, ricorda, è stata una protesta. La notizia della scomparsa di Nelson Mandela è arrivata ieri sera verso le 21:30. Molti giornali velocemente l'hanno messa in prima pagina, però naturalmente guardando la televisione, soprattutto i canali satellitari, tutti avete riportato alla memoria l'importanza del personaggio, la sua storia per alcuni versi, se questo si può dire, addirittura romanzesca, interessante, appassionante. Questa mattina non voglio fare in questo spazio, perché non è il mio spazio, una rievocazione storica del valore assoluto di Nelson Mandela nella storia degli ultimi decenni riguardo alla segregazione razziale. Però mi piacerebbe capire esattamente di quella cosa che è accaduta in un posto tanto lontano, tanto diverso, così paradossalmente antitetico rispetto al nostro bel paese, quanto è trapelato realmente nell'anima di tutti noi. Quale impressione avete ancora quando vi sedete in un autobus accanto a una persona con la pelle colorata diversa dalla vostra? Avete superato tutti i limiti che sicuramente fanno parte del nostro istinto, la nostra educazione, del nostro condizionamento, a pensare che in fondo il colore della pelle non sia una condizione per discriminare un altro essere umano? Siete veramente convinti di questo? Tutti dal punto di vista culturale, almeno le persone che di noi si sentono più consapevolmente civilizzati, dicono assolutamente, siamo tutti d'accordo, tutti contenti, tutti felici e via dicendo. Però in realtà nella vita quotidiana, nel nostro camminare tutti i giorni assieme ad altri esseri umani, abbiamo veramente fatto questo passo? Perché io penso, guardate, non è che è un discorso di facile ossequio alle ideologie politicamente corrette. Io penso che è un segno di leggerezza, non voglio dire di civiltà, di leggerezza, pensare che alla fine il nostro mondo, il nostro universo, questa è una mia idea suscettibile di ogni cambiamento, è un po' come quando da bambini ci regalavano sotto le feste di Natale o per i compleanni la confezione del pongo, era fantastica, io non avevo mai il coraggio di aprirla perché c'erano tutti i cilindrini di pongo, erano sia in cilindro, quella che costava meno, sia con tanti rettangoli pronti ad essere già tagliati nelle confezioni più lussose. C'era il pongo giallo, verde, blu, rosso, erano perfetti. All'inizio uno con grande cura e grande attenzione comincia a fare i primi pupazzini di pongo, cercando di stare attento a mantenere la colorazione originale di ogni componente della scatola del pongo. Ma poi naturalmente un po' con i fratelli, un po' con gli amici, nel giro di una settimana il pongo diventava una palla multicolore, era praticamente una sorta di palla con delle striature fra il marroncino e il blu, c'erano delle prevalenze, poi certi colori scomparivano, altri erano predominanti. Insomma, io penso che alla fine l'umanità diventerà come la palla di pongo, avrà un colore unico. Non accadrà fra un anno, fra 10 anni, nemmeno fra 1000 anni, ma sarà difficile pensare che ognuno rimarrà con le proprie integre caratteristiche come pensava che tutto il mondo debba essere. Ci sono degli acari molto pericolosi sulla spugnetta di questo microfono e questo in realtà mi costringe a un'autosegregazione. Su questa riflessione vorrei convogliare il mio pubblico. 800 24 00 24, siete convinti che diventeremo come la palla di pongo, o per voi, al di là di ogni dichiarazione politicamente correttissima di civilizzazione, pensate che in realtà è bene mantenere le proprie caratteristiche anche somatiche, anche fisiologiche, anche genetiche? Di questa cosa ne parlerò poi con una mia amica, che non a caso è l'unica mia amica che ha la pelle che è proprio nera, nera, nera, e non c'è via di mezzo, è proprio così. A tra poco. Eroe della lotta contro l'apartheid, primo presidente nero del Sudafrica, premio Nobel per la pace nel 1993. Cresciuto come un capo dal re della sua tribù fino a 20 anni, la sua aspirazione è stata quella di diventare un perfetto inglese nero. Poi i primi sussulti di libertà. Rifiuta di sposarsi la donna che il re aveva scelto per lui. Scappa a Johannesburg e lì inizia la sua militanza per l'African National Congress. 800 24 0024, all'indomani della morte serena, nella migliore delle maniere, come muoiono i giusti, accanto alla famiglia, si è spento nella gloria. Immediatamente il cortile di fronte a casa sua si è riempito di persone che hanno cominciato a ballare. La maniera come può morire un santo, può morire un eroe, come può morire una persona giusta. E questo ci fa tanto piacere. Ma in realtà questo esempio, questa vita esemplare, ha modificato, oltre l'aspetto esteriore, i nostri comportamenti, la nostra percezione. Siamo convinti che diventeremo come la palla di Pongo, quindi tanto vale cominciare ad adeguarsi subito, a non pensarci subito, a non porsi problemi subito. O pensate che in realtà occorra mantenere comunque una salvaguardia, naturalmente facendo salvi tutti i sacri principi. Geneviève, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, Geneviève Makaping è un'antropologa, scrittrice del Camerun, autrice del libro Traiettore, sguardi se gli altri foste voi, editore Rubettino, però è una cara amica mia. È assurdo perché una signora nera come lei, anzi una bella ragazza nera, è diventata anche direttore di un quotidiano in Calabria, non so come sia stato possibile. Ha girato il mondo, ha girato l'Italia, è una bella gnocca, quindi sono di quelle che comunque nessuno si prende la briga di prenderle in giro come fanno con il nostro povero ministro, che ha la sfortuna di non essere proprio di queste fattezze da top model, quindi diventa comunque una brutta da assimilare alle scimmie e via dicendo. Geneviève fa parte di quelle gnocche, quindi sono fortunate. Geneviève, al di là delle mie provocazioni, che poi mi conosci, sai. Ma non è una provocazione, io sono una bella gnocca. Sì, diciamo. Questo è vero, lo so. Infatti, ho messo la tua foto su Facebook, tutti già mi stanno invidiando con la bavetta. tu vivi profondamente. A quanti anni sono che stai in Italia? Ma adesso saranno 33 anni, come gli anni di Cristo, spero di non fare quella fine. Comunque, quella fine sono 33 anni, sì. Alla mia domanda, tu che risposta daresti? Allora, l'esempio illuminante di Mandela sono quelle cose fantastiche, oggi saranno tutti lì col fazzoletto in mano a piangere, a dire grande uomo, ma domani quando siederanno sull'autobus sentiranno ancora quel lieve senso di sospetto, di differenza, se vedono una persona che è molto diversa da loro, proprio nella sua aspetto fisico, nella colorazione della sua pelle, per quella è la cosa fondamentale, perché se noi potessimo scuoiarci e metterci una sorta di rivestimento, di cover come per i nostri cellulari, non ci sarebbe problema, perché poi dentro siamo fatti tutti uguali, ma in realtà questi pochi millimetri di epidermide cambiano completamente la percezione di un essere umano. Assolutamente, guarda, mi è piaciuto molto la tua introduzione di prima a proposito. Attenzione, questa della... frase a doppio senso è molto pericolosa. Quello del Pongo. La verità è che, Gianluca, che il mondo è già come una palla di Pongo con tutti quei colori, ma il punto è che il mondo che non se ne è accorto, o meglio, il mondo non vuole accorgersene per la volontà di pochi, di coloro che detengono il potere, di coloro che pensano e vogliono che il mondo sia diviso per colore. Un esempio molto banale e subito, anzi non tanto banale. Avete letto i titoli dei vari TG nazionali ed internazionali? E io ho sentito, ma nessuno se n'è accorto, quando la giornalista ha detto: dagli Stati Uniti, primo presidente nero dell'America ha mandato il suo messaggio di cordoglio per la morte del primo presidente nero del Sudafrica. Questo è il punto, Gianluca, è il vostro coraggio di aver dato il taglio della vostra trasmissione per onorare anche la vita di Mandela proprio a questo. Intanto, perché il presidente degli Stati Uniti è il primo presidente nero? Ma la madre, sua madre non era bianca, se proprio vogliamo parlare per colorazione di pelle. E quindi è come il Pongo, riviene solo all'improvviso, finalmente, quando certo, finalmente una coppia di integerrimi biondissimi bianchi del nord-est d'Italia quale nascerà un bambino nero senza sospetto e che ci siano stati adulteri, si dirà: finalmente siamo arrivati al momento del pongo, vatte la pesca in quale generazione precedente, come accade penso in molti altri paesi dove c'è stata una più lontana e remota integrazione di popoli diversi, no? Ma lo stiamo già vedendo, ma da tanto tempo nel Camerun, nei villaggi sperduti nascono bambini con occhi verdi, per dire. Due anni fa in Inghilterra una coppia di gemelli, una bianca e l'altra nera, ma che stiamo scherzando? Ecco, detto questo, Geneviève, però gli italiani ancora sono antiquati, razzisti, ci hanno ancora in mente faccetta nera, le abissine. Io, quando morì mio nonno, che era un personaggio integerrimo, era l'esempio illuminato di tutte le virtù, scoprì nel suo studio, fa tutte le guerre possibili immaginabili, c'erano ancora quei pacchettini con le ragazze africane abissine a seno nudo, che erano le uniche che si potevano tenere lecitamente, non venivano manco considerate oggetto di concupiscenza, e capì che in realtà mio nonno era un infame da questo. Ecco, non dobbiamo essere ipocriti, il colore, anche se a me non piacciono le generalizzazioni, però non mi piace neanche questo troppo politically correct, che significa essere anche dei grossi bugiardi, insomma, degli ipocriti. Certo. Dai, perché la differenza la sentiamo tutti, è inutile far finta tutto uguale. Ma appunto, e poi cioè, quando ti vedo sei differente da un'altra amica mia, per questo mi piace stare. Ma certo che le differenze ci sono, ma ci mancherebbe altro, cioè perché dovrei stare qui a dire che la mia pelle è di colore verde arancione se io sono nera, anzi negra, pardon, e lo pretendo pure. Perché dovrei dire questo? Però da lì pensare che per via mi toglie anche questo dubbio, visto che è una vexata questio e nessuno sa. Chiamarti negra non è un'offesa? Assolutamente no, ma che mica voglio sputare sulla negritudine di Leopold Sédar Senghor e dei grandi panafricanisti e letterati intellettuali africani, ma che stiamo scherzando? E il negro, laddove dovesse offendersi su l'uso di questa terminologia, veramente diventa negro nella accezione del razzista, di quello che lo vorrebbe negro e schiavo. Ritornando a Nelson Mandela, lui ha lavorato per questo, ma la mia preoccupazione, temo e vorrei sperare, ma non ho tutta questa certezza, che tutta questa lunga e grandissima vita di Nelson Mandela non abbia, come dire, cancellato quelle che sono insomma l'apartheid, non sono sicura. Quindi quello che temo io, che dicevo all'inizio, noi viviamo in un periodo in cui la civilizzazione condivisa, che anche una paraculata, conviene essere civilizzati oggi piuttosto che essere infami, diciamo la verità, ha segnato dei punti importantissimi che vengono segnati nei libri sacri dell'evoluzione dell'umanità, ma in realtà la percezione generale, viscerale, intima delle persone non è ancora arrivata al punto di vista sentire proprio propria, reale, vissuta, senza problemi, con grande leggerezza, quello che è il punto d'arrivo proclamato comunque dai sacri testi. Fermiamoci un istante, Geneviève. Mi arrivano degli sms. Bellissima Geneviève, la voglio sposare. Vito da Bari. Ha visto la foto su Facebook. Che siate benedetti, dice Raffaella. Che donna intelligente. Ma perché dovrebbe essere scema? Scusate, che donna. Come se fosse una meraviglia che è intelligente Geneviève. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, sì. È un tema difficile. Allora, vorrei dire solamente una cosa. Io nel mio passato quei pochi millimetri di pelle un po' li ho visti, non mai in maniera veramente razzista, però le differenze le sentivo. Ma certo, ma non possiamo, scusate, lo dico perché, non possiamo far finta che distinto non abbiamo un senso di perlomeno di diffidenza, insomma, persona molto diversa da noi, tutti ce l'abbiamo, è chiaro, ma questo lo dobbiamo superare capendo che alla fine con questa persona noi saremo incorporati, bene o male, se non noi, i nostri geni da qui a qualche tempo. Però comunque questa cosa mi faceva sentire un po' distante, un po'... sì, diciamo distante. Quando è arrivato mio figlio adottato, dico una cosa forse un po' forte, il doverlo cambiare e il dovergli dare da mangiare, quindi vedere che biologicamente... La impressionava vederlo tutti, quando lo cambiava? No, assolutamente. Siamo assolutamente identici, quando ho visto che la pupù di mio figlio c'è lo stesso odore della nostra, è la stessa della mia. Beh, pensavo fosse diverso. Sono scusa. Bianco, non vedo più i colori in giro. Vedo le differenze culturali, ma quella barriera che ti fa sembrare biologicamente, fisicamente differente una persona che ha solo la pelle di un colore differente, è caduto. Va bene, la capisce. È caduto completamente. Con la convivenza, se noi dovessimo vivere con persone diverse da noi. È una questione di convivenza, sì, sì. Se un vicino, dovessimo sia viverci... un amico, sia un collega, bisogna starsi vicino per conoscersi e capirsi e vedere. Grazie, che grazie. Giuliano, Giuliano, segatelo. Giuliano. Sì, pronto. Giuliano, eccomi. Eccomi qua. Giuliano, c'è? Sì, ci sono. Vado al punto perché il tempo, sai, quel che... Allora, senta, niente, io volevo semplicemente intervenire sul fatto, mi era molto piaciuta la sua idea del pongo. La palla di pongo, che diventa marrone, esatto. Alla fine gira gira diventa marrone, è la palla marrone alla fine, sì. Anche perché io vengo da un piccolo paese nel centro Italia, in provincia di Perugia, dove si sa le abitudini sono, soprattutto quelle di una trentina di anni fa, erano quelle di non vedere persone di altro colore. Fortunatamente dopo ho avuto l'occasione. Beh, oddio, Perugia, ci sono nato e vissuto 30 anni, era la prima città, avendo un'università per gli stranieri, in cui da piccolo vedevano persone venivano dall'Africa, se no normalmente in altre città le vedevano soltanto nelle figurine. Io mi ricordo che a Perugia se ne vedevano, era normale. Pensi che metà degli anni 50, primi anni 60, vedere una città girare africani per strada con un libro sotto braccio andare all'università era una cosa molto rara. Quindi... Chiediamo. E quindi niente, io ho avuto l'occasione dopo di abitare per una ventina d'anni in Nord Europa e soprattutto in Belgio, dove le cittadinanze sono di tanti, svariate, sì. Variate nazionalità e soprattutto neri. Ho avuto l'occasione di avere nella mia squadra sportiva anche dei colleghi di colore, e di cui uno era un grande massaggiatore e prese in mano mia figlia da piccola e cominciò a massaggiarla e mia figlia come se fosse ipnotizzata da questa persona. E da allora adora tra l'altro le persone di colore. E questo a me ha aperto completamente... Adora, cioè, come gli altri, ci saranno anche stronzi, ci saranno anche persone detestabili. Non va fatta nemmeno l'idolatria, perché sennò si crea ancora un problema ancora più grave. Gianluigi, chiudiamo con Gianluigi e poi con Genevieve, che già mi dicono che ascoltando Genevieve parla meglio di qualsiasi calabrese, siciliano, napoletano, pugliese. Vabbè, la professoressa ha studiato. Dai, Gianluigi. Sì, buongiorno. Io sicuramente dico, non ci sono i tempi evolutivi per la palla di pongo. Perché finisce prima il mondo, finisce? Sì, poi l'uomo sarà l'unica specie ad autoestinguere, cioè a contribuire attivamente alla propria estinzione. Ah, lei dice non facciamo in tempo a diventare tutti marroncini. Ma non ce la faremmo nemmeno proprio... Beh, una bella sfiga, scusi. Ma non è meglio essere marroni che morire, no? E aggiungo, ma sì, ma purtroppo non ce la faremo proprio... A parte quando si muore marroni si diventa tutti. Sono pessimista. E poi le aggiungo un'altra cosa. Purtroppo i 10.000 anni di cultura, sui 2 milioni di anni di evoluzione dall'uomo erectus, pesano poco. I pregiudizi saranno sempre preponderanti. Va bene, questo è il suo punto di vista. Grazie. Genevieve, si meravigliano tutti che parli bene, che sei intelligente, che sei simpatica. Questo significa che ancora c'è da lavorare, dai. Non lo so. C'è ancora molto da lavorare. Cioè, tutti si aspettavano, ti chiamavo qui, ti facevo ballare sul tavolo, non lo so cosa potevano pensare. Ma che... guarda, anche col gonnellino di paglia non ho problemi. Senti Gianluca, volevo solo ricordare una piccola cosa, giusto per fare onore ancora alla persona che stiamo salutando oggi. Per quanto mi riguarda, è già da quest'estate che l'ho salutato, Madiba Nelson Mandela. Tu pensa che è stato cancellato dalla lista dei terroristi negli Stati Uniti solo nel 2008, e questo lo cita molto bene questa mattina un grande intellettuale algerino che amo molto, si chiama Tahar Lamri. Questo per dire che cosa? Cioè al tempo delle Torri Gemelle gli Stati Uniti nella lista dei terroristi c'è ancora Nelson Mandela. È stato cancellato nel 2008 e lo ricordava Tahar Lamri questa mattina. Ma questo per dire che cosa? Non ho voglia di polemizzare, ma solo per dire quella che ritengo la mia verità, è che a volte questo mondo viaggia così lentamente, lentissimamente rispetto a quella che è la quotidianità. Nel Sudafrica ancora oggi i quartieri sono separati per cosiddette razze, ancora tutt'oggi. Quindi un'illusione che il presidente è una grossissima illusione ottica. Con la lacrimuccia dice vi dico che è morto il nostro grande padre, poi ci sono i quartieri divisi ancora per razze. Assolutamente, e poi basta andare lì e vedere chi viaggia nelle belle macchine, chi sta nei bei quartieri, chi ha i soldi e chi non ce l'ha, insomma è evidente agli occhi di tutti. Detto questo, molto c'è ancora da fare e bisogna fare, come ha detto Nelson Mandela, ma non solo lui lo diceva Steve Biko, il giovane sudafricano ammazzato durante la lotta fortissima contro l'apartheid, ma lo diceva anche Malcolm X, che importante è dare la possibilità a tutti di accedere alla alfabetizzazione, scolarizzazione, accesso alla cultura, alla conoscenza, perché solo conoscendo il tuo nome, cioè acquisendo il sapere tuo e dell'altro, sarà in grado di fare certe differenze. E cioè non a caso Genevieve Mandela è uno che aveva studiato, aveva avuto la fortuna che era di ottima famiglia, aveva studiato molto. La cultura è la base di tutto. Grazie Genevieve, a domani.